Okay, so my name is Roni. I am an Israeli dissident. Usually, I like to think of myself as a conscientious objector to military service, activist in the Palestinian popular struggle, and a BDS activist. But there is also another way that I introduce myself usually, which is to simply say that I'm a privileged Israeli Jew, because everything about the situation that I'm in is to give privileges to people of my ethnic background and to take away the basic rights from the others. Mi chiamo Roni e generalmente mi presento dicendo che sono un dissidente, un obiettore di coscienza, non ho fatto il servizio militare e sono anche un attivista, lotto a fianco dei palestinesi per la loro lotta di indipendenza e faccio parte del movimento per il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele. Un altro modo in cui altresì mi presento è dicendo che sono un ebreo bianco e privilegiato. Infatti, tutto quello che mi riguarda ha anche a che fare con il privilegio etnico di cui io posso godere. Visto che appunto l'hai citato già dall'inizio, ti chiederei anche sia di introdurci molto brevemente per chi degli ascoltatori non lo conosce il movimento BDS e soprattutto anche poi quella frangia del movimento che hai fondato tu che è Boycott From Within. The BDS campaign started in July 2005. It is signed by over 170 different civil society organizations, Palestinian organizations representing all domains of Palestinian society, both geographically, those who are second-class citizens inside what we call Israel proper or Palestine 48, those who are under a harsh military occupation, and those who are in the diaspora and denied the right to come back home. Il movimento per il boicottaggio è stato creato nel luglio 2005, è stato firmato da più di 170 società delle organizzazioni della società civile e si tratta di una richiesta che ha fatto la società palestinese da diverse parti sul territorio nazionale. Si parla sia di quello che noi chiamiamo il territorio del 48, quindi Israele, e il territorio che invece subisce ormai da anni una pesantissima occupazione militare, sia di tutti quei palestinesi che si trovano ad essere rifugiati altrove, quindi della diaspora palestinese. And what this civil society movement demands, which is representative of all sorts of civil society organizations, trade unions, student organizations, and so on. What they demand is the basic rights that are afforded or should be afforded to Palestinians. Namely, there are three rights relating to the three categories that I mentioned before. And these rights are basically can be described by implementing equality, freedom, and justice for all the people of that land. Si tratta di domande che fa la società civile e anche ne fanno parte nel BDS organizzazioni studentesche, sindacati ed altri tipi di associazioni, ma in generale appunto si tratta di un movimento mosso e richiesto dalla società civile che richiede il riconoscimento di tre diritti fondamentali di cui possiamo parlare, ma in linea di massima si tratta di chiedere che uguaglianza, giustizia e libertà siano riconosciute. So basically, again, being the privileged Israeli Jew that I am, who lives in Israel-Palestine, whether I want it or not, at the expense of those who are struggling for their basic rights, it is obviously a no-brainer for me and other conscientious Israelis to support this struggle for basic rights for all the people of that land. And this is what the BDS campaign is about. It is really far from being a radical stance. It is a no-brainer. It is really the very first step that we should do is to support the rights of all the people of that land. Just like I don't think that many people question whether the boycott of South African apartheid at the time was unneeded or uncalled for. At the time, maybe there were questions, but today, no one thinks that the boycott of South Africa was an unwanted thing. and today it is the boycott of Israel. Quindi, in quanto ebreo privilegiato e bianco e abitante di quel territorio che è la Palestina, Israele, io ritengo che sia mio dovere e mia responsabilità fare la mia parte perché questi diritti fondamentali vengano riconosciuti. Si tratta veramente di una richiesta non particolarmente radicale, si tratta di riconoscere diritti fondamentali. È proprio il primo passo che va fatto, così come fu fatto anche in Sudafrica. All'epoca forse c'erano delle domande, ma nessuno oggi potrebbe dire che in Sudafrica il boicottaggio fosse sbagliato. Ecco, all'epoca si trattava di Sudafrica, oggi si tratta di boicottare Israele. Ecco, visto che nella tua ultima risposta hai citato per la prima volta la parola che poi sarà al centro dell'evento di questa sera, che è apartheid, a questo punto ti porrei la domanda che poi aprirà anche l'incontro appunto di questa sera alla BA, che è: perché possiamo chiamare apartheid il sistema di oppressione di Israele nei confronti dei palestinesi? What's important for me to say is that first of all, Israel was never anything other than an apartheid state. It was established that way. What do I mean by that? People who are opposed to Israeli crimes tend to think that there may have been something legitimate about the way that the state of Israel was created, that maybe it only turned sour later on, maybe in 67 when Israel occupied the West Bank and Gaza, for example. But actually, the very establishment of the state of Israel was done at the expense of the indigenous people of that land. How was it done? First of all, by driving away the indigenous population, and immediately afterwards, by making sure that those who have been expelled will never be allowed the right to come back home, and those who remained on their land, because obviously not everyone was expelled, will be denied the same rights that I have. Dunque, vorrei cominciare dicendo che lo Stato di Israele è sempre stato così. Ci sono persone oggi che pensano che si tratta di qualcosa che è avvenuto più tardi, no? E ci sono persone che pensano che non sia stato creato così, che le cose sono andate male da un certo momento in poi, dal 67 in poi, quando per esempio è stata occupata quel territorio che si chiama West Bank o Cisgiordania e Gaza. È un progetto che è iniziato esattamente così, con l'espulsione delle popolazioni indigene che vivevano su quella terra in prima istanza. Secondariamente si è trattato di espellerle, quindi poi di farle allontanare e assicurarsi che non potessero tornare, e come terzo passaggio si è trattato poi di fare in modo che le persone che invece erano rimaste non avessero gli stessi diritti di cui io invece sono titolare. Everything that Israel does since its very inception is based on that notion of ethnic supremacy, giving rights to some at the expense of the others, based on their ethnicity or race or whatever you want to call it. So Israel, which some people refer to as a Jewish state, has nothing to do with Judaism, absolutely nothing. Zionism has absolutely nothing to do with Judaism. The only way that you can regard Israel as a so-called Jewish state is in the exact same way that South Africa was a white state. It's a matter of ethnic or racial supremacy. Dunque, si tratta di un progetto che si basa su un concetto di supremazia di una razza sulle altre. Si tratta di qualcosa che prevede che alcuni abbiano dei diritti a discapito di altri. Si tratta non di giudaismo, il sionismo non ha nulla a che vedere con il giudaismo, ma è un progetto che si basa sull'etnia, sulla razza. E non possiamo parlare di stato ebraico, così come in Sudafrica, come dire, possiamo parlare di stato ebraico se in Sudafrica, così come in Sudafrica si poteva parlare di bianchi. Si tratta sempre, la base è sempre quella della supremazia razziale o etnica. Now, finally, when we talk about apartheid, meaning the legal term, the crime of apartheid, as defined in the Rome Statute, it so happens that Israel neatly falls under that legal definition of the crime of apartheid, which is a very, very serious crime. It is one of a few crimes that are regarded as a crime against humanity, on par with genocide, for example. And that means that every country in the world is obligated to fight against this, certainly not to support it. Now, it's not only my view. Also, the best legal scholars are very clear about accusing Israel of practicing apartheid, including in the excellent report that was published, the UN report on Israeli apartheid, which accuses Israel of practicing apartheid throughout the territory under its control and even beyond, because also the refugees who are outside of that territory suffer from the consequence of Israeli apartheid. Dunque sì, possiamo parlare di apartheid, infatti quello che accade in Israele ricade esattamente sotto la definizione che ne dà lo Statuto di Roma e la Corte Criminale Internazionale infatti ne dà una definizione molto grave, si tratta di un crimine gravissimo contro l'umanità la cui gravità è forse paragonabile solo al genocidio e quindi è qualcosa che noi abbiamo veramente la responsabilità di contrastare, non si può sostenere qualcosa del genere e lo dicono appunto i professionisti che si occupano di diritto internazionale e loro stessi accusano Israele di praticare apartheid non solo sul territorio di Palestina, Israele, ma anche oltre lo stesso territorio contro tutti i palestinesi che oggi sono profughi e non possono tornare. Un altro motivo per cui ancora di più, diciamo, sta venendo riconosciuta l'apartheid in Israele è una legge che è stata approvata a luglio del 2018. E questa legge ha cambiato veramente qualcosa nella realtà delle cose. I'm very happy you asked this question because if you read the mainstream media, they will, if they are a little critical of Israel, they will say that Israel has legislated an apartheid law. It is true, but actually that law changes nothing about the situation. Everything that is in the law already existed before. The only difference is that Israel is transitioning from being implicitly racist, fascist, supremacist, and so on, to being explicitly so. And that Jewish nation state law is a demonstration of that, how it is becoming explicitly racist and explicitly endorses apartheid policies. But it was always there in the law. E dunque, sono molto felice che tu chieda questa domanda. Infatti, tutti i giornali oggi che sono anche un po', solamente un poco critici nei confronti dello Stato di Israele, scrivono che fondamentalmente lo Stato di Israele ha emesso una legge di apartheid. E, in realtà questa legge non cambia nulla, tutto esisteva prima. Quello che sta accadendo, l'unica novità, è il fatto che si stia passando da un sistema che prima era implicitamente apartheid ad un sistema che invece lo sta diventando in maniera esplicita. Questa legge è dunque la dimostrazione che Israele sta scegliendo di proporre in maniera esplicita le forme dell'apartheid. So that law, for example, downgrades the status of the Arabic language. That law, for example, allows for having in ethnically pure places of residency and so on. But again, this has already been implemented in practice in the past. What is different about this law is not that it changes anything about the past. It doesn't. It changes things about the future, and it tells us something about what the Israeli policymakers are up to. What that law says is that the ethnic Jews in that land are the only ones who will have national rights. Everyone will have citizenship rights, which means very little in Israel, but the only one select group will have national rights, which are the important rights. And since this is a basic law, which is akin to a constitution, there is no constitution, but it is a law that is very difficult to change. What that means is that in the future, even if they are no longer the majority, they will still be the masters of the land. And that allows opens the possibility for the government to annex Area C, even to annex the entire land with the people in there, and still make sure that they and only they are the masters of the land. Dunque, quella legge prevede diverse cose in maniera molto esplicita. Per esempio, la lingua araba viene ritenuta una non più lingua nazionale, quindi una lingua di serie B. Permette solo in alcune aree, prevede che ci siano diritti di residenza in base all'appartenenza etnica, in maniera tale da pulire etnicamente, rendere puri certi quartieri, certi territori. Ma tutto questo sì, oggi diventa legge, viene scritto nella legge, ma era nei fatti messo in pratica in passato correntemente. Quindi non cambia ciò che è accaduto in passato, ma sì, posso dire che il futuro si presenta in maniera diversa oggi. Infatti questa legge di fatto ci mostra che cosa pensatori politici israeliani stanno iniziando a pensare, a riproporsi di fare. Io penso che l'obiettivo sia quello di andare verso un paese in cui ci saranno diritti nazionali solo per alcuni, solo per gli ebrei. Sapete, come sapete, in Israele c'è la nazionalità e la cittadinanza. La cittadinanza in realtà non significa nulla. Quindi si hanno diritti solo se si ha la nazionalità israeliana, che solo gli ebrei possono avere. Ora, questa legge è una legge veramente importante e, come sapete, in Israele non c'è la Costituzione, è una legge, una basic law, una legge che è molto difficile modificare. E, quindi ci fa intravedere un futuro in cui la maggioranza etnica, la maggioranza demografica non è più fattore determinante per definire chi si occupa di chi decide in un debito territorio. Non è più appunto la maggioranza demografica, ma è l'etnia, che l'appartenenza razziale, che definisce chi è il padrone di quel territorio. Questo significa che se un domani Israele decide di annettere l'area C, in cui vivono tantissimi palestinesi oggi in Cisgiordania, e quindi di fatto entrano a far parte del territorio molti altri palestinesi, non significherà nulla in termini politici, in termini di uguaglianza, in termini di cambiamento delle cose, perché continueranno a comandare solo gli ebrei in base a questa legge. E adesso ti faccio una domanda che è abbastanza l'ovvia conseguenza di quello che abbiamo detto finora, ovvero perché proprio adesso Israele si è sentita forte di fare questa legge, quindi di esplicitare questo suprematismo, diciamo, e questo suprematismo razziale. Se c'è un'influenza anche magari dello scenario internazionale, nel senso che di attenzione per i diritti umani ce n'è meno forse negli ultimi anni, o se invece ha a che fare con questioni interne alla zona di Israele. I think that all these activities done inside Israel and outside, legislating such crazy laws that are explicitly racist, as well as trying to legislate abroad all kinds of laws against BDS, against people acting on their conscience, and basically forcing them to basically have business with this apartheid state, and forcing them basically laws that violate their own rights for freedom of expression, freedom of organization, and so on. This just shows the true face of Israel. And it also shows something about the other countries that allow this to happen. But this is actually a very encouraging moment, I think. I'm not at all concerned about these laws. I'm actually quite happy that they allow us to expose Israel, or they expose Israel for what it really is, And now the question is, what do we do about it? And the BDS campaign has become a global awareness movement. And due to the success of the BDS campaign, we see these crazy laws being legislated in Israel and abroad. So this is a very reassuring situation that we are actually doing something that's effective, that is actually changing the situation. Dunque sì, tutte queste attività che ci sono in Israele e fuori da Israele, intese come appunto le nuove leggi che decidono che cosa va contro Israele e poi dopo lo rendono perseguibile per legge. Tutte queste persone, ecco, che decidono di far parte del BDS in giro per il mondo e tutte queste leggi che vengono promulgate dentro Israele ma anche fuori da Israele, che limitano di fatto la libertà di espressione delle persone che in coscienza decidono di dire no, questa cosa non va bene. E tutto questo movimento che c'è, insomma, in realtà rivela la vera faccia di Israele e io ritengo che sia una buona cosa, perché di fatto se c'è così tanto fermento contro il BDS, perché il BDS ha funzionato. Ora la domanda reale che mi piacerebbe farmi è che cosa facciamo adesso. Credo che si debba continuare in questa direzione perché è una campagna che ha funzionato. One more reason for optimism is what is happening now in Berlin. I am based in Berlin these days, and early March, on the 4th of March, we will go to court. Three activists, BDS activists, two Israeli dissidents, and one Palestinian friend from Gaza. And we are taken to court in Berlin simply for standing up to speaking up against the speech by an apartheid representative who was speaking there. And we will go to court and we will have our day in court, where on the one hand we are accused of some made up criminal charges, and on the other hand we have a chance to take Israel to court and speak up about the reasoning for why we need to stand up to these crimes, because Israel is practicing crimes against humanity for the past 7 decades on a daily basis. So the fact that they are persecuting activists, including Israeli activists, in Berlin again shows us the despair that Israel is in, and its accomplices like the Berlin mayor and so on, when they are so afraid of us speaking up against these crimes. At the same time, we are being hosted next week by the mayor of Copenhagen, Denmark, supporting us in this very struggle. So you can see how there are different forces in this struggle, and I think it is very encouraging to see how these forces are basically, people will have to eventually take a stand, whether they support apartheid or oppose apartheid, whether they support supremacy or oppose supremacy, and this is where we stand at the moment. Una delle ragioni mie di ottimismo in questo momento è il fatto che, per esempio, il 4 marzo saremo processati in corte a Berlino. Siamo tre attivisti, tre dissidenti, due di cui io siamo israeliani. E di fatto verremo portati di fronte alla corte a Berlino perché abbiamo deciso di opporci ad un discorso, a una presentazione che faceva un ministro israeliano che era venuto a Berlino, quale rappresentante dello Stato di Israele, e noi siamo andati all'incontro e ci siamo opposti. E dunque verremo processati il 4 marzo, ma questo veramente dimostra che Israele è disperato e porta tre attivisti di fronte a una corte a Berlino con la complicità del sindaco della città, semplicemente per il fatto che hanno deciso di opporsi alla presenza di un rappresentante dello Stato israeliano, e quando questo Stato da ormai 7 decadi compie continuamente crimini contro l'umanità. Ora, se da un lato veniamo processati il 4 marzo a Berlino, dall'altro la prossima settimana saremo a Copenaghen, dove il sindaco della città invece ci riceve perché ci sostiene. Quindi, come vedete, ci sono in questo momento la lotta sta attraversando fasi alterne. È il momento in cui le persone devono decidere se vogliono veramente essere con o essere contro, sostenere l'apartheid o non sostenerla.